Riga è il primo dei dossier sulle droghe. Riga sta per Report e inchieste di giornalismo antimafia, un lavoro che con Libera Bologna, in collaborazione con Libera Informazione, abbiamo deciso di fare per approfondire la presenza mafiosa a Bologna. Purtroppo ancora troppo spesso si sente dire che Bologna è libera, una città libera dalle mafie. In effetti è un po' quello che emerge dai vari processi in cui Bologna sembra essere una terra di nessuno. In verità, come ha detto anche il procuratore Alfonso dopo l'operazione Emilia a gennaio del 2015, Bologna è più che altro una terra di tutti ed è così anche per le droghe. E abbiamo deciso così di partire proprio da questo tema perché è un tema che in particolare poi in questo periodo è sempre alla ribalta a livello mediatico con modalità che secondo noi sono troppo superficiali. Quello che abbiamo voluto fare invece è stato unire i vari ambiti che poi vanno a comporre il quadro delle droghe a Bologna, quindi non solo spaccio ma anche narcotraffico, dipendenze, per comporre effettivamente un quadro che a noi sembra completo su questo tema. Una cosa interessante è che la nostra città, forse anche per la posizione geografica, come dice già anche il titolo del dossier, è un vero e proprio crocevia. Sì, un crocevia, questo lo dimostrano le varie operazioni di narcotraffico che hanno proprio come Bologna il centro dei traffici. Le droghe arrivano a Bologna per fermarsi o come semplice transito, in particolare dal Sud America. Le grandi operazioni che riguardano Bologna infatti sono quelle che hanno come protagonista principale l''Ndrangheta, che gestisce appunto i traffici di cocaina dal Sud America. In verità però tantissime altre sono le droghe che arrivano a Bologna, tanto che nel contributo che c'è all'interno del dossier fatto da Salvatore Giancani, tossicologo del CERT di Bologna, Bologna viene definita proprio un libero mercato, sia perché non c'è un'associazione criminale predominante, sia perché appunto a Bologna passano tutte le droghe. Un libero mercato dove però le associazioni criminali si spartiscono fette di mercato. Il mercato è talmente ampio appunto che non c'è necessità di una predominanza unica, ma i guadagni ci sono per tutti. Questo è evidente in particolare per l'eroina, che viene gestita da diversi gruppi criminali stranieri, quindi pakistani, nigeriani, albanesi in primo luogo. E l'eroina che arriva a Bologna viene assorbita immediatamente. Questo è uno dei segni più evidenti di quanto ci sia richiesta delle droghe nella nostra città. Tu prima dicevi che l'informazione non sempre affronta in modo completo e corretto la questione. Cos'è, troppo sbilanciata sugli ultimi anelli della catena? Sì, da una parte sicuramente, nel senso che si crea anche una sorta di allarme sicurezza che non va poi ad approfondire effettivamente tutto quello che c'è dietro, quindi lo spaccio in Montagnola, lo spaccio in Piazza Verdi sembrano essere gli unici problemi della città per quanto riguarda le droghe. In verità, sempre secondo i dati che ci dà Salvatore Giancane, Piazza Verdi e la Montagnola riguardano l'1% dello spaccio di Bologna, quindi insomma il fenomeno è effettivamente molto più ampio di quello che emerge dai giornali, in cui appunto il problema della sicurezza sembra quello più grave. E l'altra cosa è un'informazione anche a volte scorretta dal punto di vista proprio tecnico, quindi quando si legge per esempio eroina killer, eroina da overdose, sono tutti titoli fuorvianti che non vanno ad approfondire qual è il problema reale della situazione. Vi siete fatti l'idea se il problema, come dire, sta aumentando negli ultimi anni o Bologna ha sempre ricoperto questo ruolo e quindi rimane in linea? Beh, di sicuro c'è un aumento, in particolare per il prezzo che è sceso. Il prezzo è sceso per l'eroina, vista la grande produzione di oppio che c'è stata dal 2007 in poi, e quindi ovviamente con i prezzi più bassi c'è anche una maggiore richiesta, una maggiore diffusione, ma è aumentato proprio anche per questa varietà di droghe che circolano a Bologna, tanto che spesso appunto le case bolognesi sono gli stessi centri dove vengono ad esempio fatte le droghe sintetiche, quindi insomma questa grande varietà porta evidentemente anche a un maggiore consumo.